Giornale radio del Friuli Venezia Giulia. Sono 15.000 le imprese edili interessate alla patente a punti, un documento che sarà obbligatorio dal 1 ottobre per poter partecipare ai cantieri strutturati, una misura promossa dall'ANCE. Partiti i lavori necessari alla realizzazione del parco urbano nel Porto Vecchio di Trieste, che presuppone la chiusura definitiva del parcheggio di Molo Quarto. Una misura ampiamente annunciata, ma che ha trovato impreparati una trentina di automobilisti stranieri che non hanno rimosso le automobili dal parcheggio in dismissione. Il naufragio della motonave di linea Audace al largo di Grado. È in corso il primo incidente probatorio per comprendere le cause che hanno costretto il comandante a lanciare l'SOS. Sabato sera a Trieste, agenti antisommossa, guardia di finanza, polizia locale impegnati in diversi quartieri triestini in un'operazione ad alto impatto in cui sono stati identificate 200 persone e controllati 26 bar. La strada regionale 355 che attraversa Sappada e collega il Friuli Venezia Giulia e il Veneto è stata riaperta dopo le frane venerdì, anche se a traffico alternato, ma per Google Maps è ancora impercorribile, costringendo gli automobilisti a percorsi lunghissimi. È partita da Roveredo in Piano, dove nel 2020 fu uccisa Aurelia Laurenti, la camminata della vita, che nei prossimi giorni toccherà tutti i luoghi nel Pordenonese legati alle vittime di femminicidio. Nel comune di San Pietro al Natisone le cave dismesse diventano un'aula a cielo aperto di geologia. Buongiorno da Lara Zani e Nada Cioc. In apertura la patente a punti per le imprese edilizie riguarda 15.000 aziende in Friuli Venezia Giulia. Si tratta di un certificato che dal 1 ottobre sarà necessario per lavorare nei cantieri strutturati, una misura alla quale l'ANCE guarda con favore. Giudizio positivo da parte dell'ANCE, l'Associazione Nazionale Costruttori Edili, sull'obbligo per la patente a crediti per poter lavorare nei cantieri. Obbligo che, introdotto dal governo a marzo, scatterà ufficialmente dal 1 ottobre. Il decreto attuativo del nuovo strumento, scrive Il Sole 24 Ore, è alle verifiche finali e attende solo di essere pubblicato. Dotazione iniziale della patente per lavorare nell'edilizia, 30 crediti. Una tabella stabilisce meccanismi premiali per acquisirne, investimenti, formazione, ma anche le violazioni legate soprattutto al rispetto delle norme di sicurezza che portano alla decurtazione dei punti. Soddisfatto Piero Petrucco, vicepresidente nazionale di ANCE, per l'accoglimento da parte dell'esecutivo della richiesta di esentare dall'obbligo di patente le imprese che hanno già la cosiddetta certificazione SOA, obbligatoria per chi esegue lavori pubblici, ovvero la quasi totalità di quelle aderenti all'associazione di categoria. Il possesso dei requisiti per la patente, tra i quali iscrizione alla Camera di Commercio, regolarità contributiva e gli obblighi formativi, sarà autocertificato. Bene incentivare la formazione anche della catena di maestranze che lavora nei cantieri, sottolinea il presidente di ANCE FVG, Marco Bertuzzo. Il possesso della patente sarà tuttavia l'ennesima attestazione da dover controllare, continua Bertuzzo, in un contesto in cui proliferano le partite IVA forfettarie. Agevolate dal sistema fiscale, talvolta guadagnano più dei nostri dipendenti, afferma. L'obbligo di patente riguarderà oltre 15.000 imprese nel settore costruzioni in Friuli Venezia Giulia, due terzi delle quali, 9.500, di tipo individuale. Bertuzzo valuta infine positivamente l'obbligo di possesso di un documento equivalente rilasciato dal proprio paese anche per le imprese e i lavoratori autonomi stabiliti in uno stato estero. Per il futuro, auspica Petrucco, bisognerebbe puntare meno sull'aspetto formale e repressivo, servirebbero invece più controlli nei cantieri e più prevenzione, quindi più sostanza. Udine, Lillo Montalto Monella, TGR, Friuli Venezia Giulia. Il parcheggio del Molo Quarto a Trieste è definitivamente chiuso per lasciare spazio ai lavori che porteranno alla realizzazione del parco urbano nel Porto Vecchio. Una chiusura annunciata da tempo anche con cartelli, che ha tuttavia preso alla sprovvista una trentina di turisti che hanno lasciato le automobili negli stalli del parcheggio. Quasi 500 stalli in meno dall'oggi al domani, nel cuore del centro. Sarebbe stato un colpo da KO per una città affamata di parcheggi, ma il periodo ferragostano, con molte assenze per ferie negli uffici del Borgo Teresiano, fa apparire i disagi sopportabili. Molo Quarto chiude e restano fuori i triestini che non sapevano e dentro gli stranieri, una trentina le macchine di turisti che non avevano tenuto conto di un termine così tassativo. Potranno recuperare l'automobile senza conseguenze al massimo entro un paio di giorni, ma intanto scade oggi la concessione del comune a Trieste Termine Passeggeri, concessione da 700.000 euro appena rinnovata fino a dicembre, ma poi revocata dall'amministrazione che deve aprire il cantiere per il cosiddetto parco lineare in Porto Vecchio, 5 ettari di aree verdi dal terrapieno di Barcola al centro storico. I lavori dovevano partire a inizio anno per chiudersi entro il 2026, scadenza inderogabile perché ci sono in ballo i finanziamenti del PNRR e i tempi cominciano a essere stretti. Ma intanto il nodo parcheggi. Noi siamo concessionari, ci spiega Francesco Mariani, amministratore delegato di Trieste Terminal Passeggeri, e rispettiamo le decisioni del comune, tanto più che i parcheggi costituiscono non più del 10-15% del fatturato di TTP, ma dico sommessamente che una riflessione sui parking cittadini andava fatta da tempo. Cosa succederà con gli uffici a regime e il turismo settembrino che promette bene? Il comune promuove il silos, mentre in zona rive non basteranno i 150 nuovi posti in via Carli. TTP offre parte degli spazi destinati alla sicurezza marittima per le crociere, ma solo in caso di toccate di navi piccole. Le direttive vanno rispettate. Trieste, Giampaolo Mauro, TGR, Friuli Venezia Giulia. Il naufragio della motonave Audace al largo di Grado a giugno. È in corso il primo incidente probatorio sulla motonave Audace per stabilire le cause dell'avaria che ha portato il capitano a lanciare un SOS per rischio affondamento mentre il mezzo era in navigazione con 80 passeggeri a bordo al largo delle coste di Grado il 12 giugno. La procura di Gorizia aveva aperto un fascicolo per naufragio colposo. Due settimane fa è stato nominato dalla sostituta PM Laura Villani il perito che avrà il compito di consegnare la relazione tecnica dopo un'analisi dell'esterno e dell'interno dell'Audace. Non parteciperanno consulenti dell'azienda di trasporto goriziana APT che opera il servizio trasporto passeggeri da Trieste a Grado, oggi effettuato da bus sostitutivi. APT nel procedimento è parte offesa e potrebbe costituirsi parte civile in un eventuale processo. APT farà richiesta affinché il proprio perito possa accedere all'imbarcazione prima che venga spostata. Presente oggi invece il perito dell'armatore, il consorzio veneziano Vidali Group. Dopo il Mayday, tutte le persone a bordo furono recuperate e sbarcate in sicurezza al molo torpediniere di Grado. A un primo esame esterno, nelle ore successive, era stato possibile appurare l'assenza di squarci sullo scafo. Gli ingegneri navali nominati dovranno cercare di capire come mai sia entrata acqua da sopra la linea di galleggiamento, sia finita sotto coperta e non sia più riuscita a uscire. La Polizia di Stato ha predisposto sabato sera un servizio straordinario di controllo del territorio ad alto impatto a Trieste. In particolare sono stati controllati 26 esercizi pubblici nelle zone tra Piazza Goldoni, Piazza del Perugino, Piazza Garibaldi, Largo Barriera, Piazza Venezia, Piazza Libertà, Viale 20 Settembre e la Riviera di Barcola. Nel corso della serata sono state identificate circa 200 persone, di cui 75 stranieri. I controlli sono stati disposti in relazione alla necessità di monitorare le aree della città connotate da particolari condizioni di degrado urbano al fine di prevenire condotte illegali, in special modo riferite al consumo di sostanze stupefacenti, all'abuso di alcolici e alla vandalizzazione degli spazi pubblici, scrive la nota della questura. In tale contesto sono stati messi in campo mirati servizi che hanno impegnato personale della Polizia di Stato con il rinforzo di equipaggi del reparto prevenzione crimine e di Padova, dell'arma dei carabinieri, della Guardia di Finanza e della Polizia Locale. È iniziata la 2 giorni di visite nelle carceri di Tolmezzo e di Udine da parte dell'associazione Nessuno Tocchi Caino e della Camera Penale Friulana di Udine. Degli osservatori fa parte anche il garante dei diritti delle persone private della libertà personale del Comune di Udine, Andrea Sandra. Oggi la delegazione è in visita al carcere di massima sicurezza di Tolmezzo, domani invece sarà la volta della struttura di Via Spalato a Udine. 117.000 euro dall'Unione Europea per ridurre il rischio nella gestione dei torrenti in Friuli Venezia Giulia in Slovenia, migliorando la pianificazione e la manutenzione delle opere di controllo di questi corsi d'acqua. Il progetto biennale, guidato dall'Università di Udine e cofinanziato con il programma Interreg Italia e Slovenia, interesserà 6 bacini idrografici pilota della regione Slovenia. Partner del progetto sono la regione Friuli Venezia Giulia, il centro regionale di sviluppo di Capodistria e l'Università di Lubiana. Il progetto Torrent è coordinato da Federico Cazorzi, che guida un gruppo di ricerca del Dipartimento di Scienze Agroalimentari, Ambientali e Animali dell'Ateneo Friulano. 6 i bacini idrografici pilota in Friuli Venezia Giulia sono quelli del Moscardo a Paluzza, del Orteglas a Paularo, del Mioza a Ovaro e del Cellavuom a Camporosso. In Slovenia invece quelli del Krvavec a nord di Lubiana, dello Sapskareka Riospo e nella regione di Capodistria. La strada regionale 355 a Sappada è stata riaperta a traffico alternato venerdì scorso, a 36 ore di distanza dalla frana che ha invaso la sede stradale. Ma Google non ha aggiornato le indicazioni stradali e la fa figurare come fosse ancora chiusa, suggerendo la lunga deviazione dal passo della Mauria per chi è diretto in Cadore. Sono numerose le segnalazioni giunte al comune e al consorzio turistico di Sappada, ma il motore di ricerca più utilizzato da chi cerca indicazioni stradali non ha ancora aggiornato il sito. La strada regionale è aperta dal pomeriggio di venerdì a senso unico alternato con regolazione semaforica e sempre a Sappada è riaperta la ex provinciale 22 della Valsesis, che dalla frazione di Cima conduce ai rifugi e ai ristori collocati ai piedi del gruppo montuoso del Peralba. Anche quella strada era stata chiusa per una frana caduta nella notte fra mercoledì e giovedì. Contro la violenza di genere nella provincia di Pordenone si cammina lungo i luoghi che sono stati legati a dei femminicidi. L'iniziativa promossa dall'associazione Tognon di Fontanafredda è partita da Roveredo in Piano, dove nel 2020 fu uccisa Aurelia Laurenti. Roveredo non picchia, ama, recita la scritta sopra la panchina rossa dedicata ad Aurelia Laurenti, uccisa dal compagno Giuseppe Forciniti, poi condannato a 22 anni il 25 novembre 2020, nella giornata internazionale contro la violenza sulle donne. Oggi Aurelia avrebbe celebrato il suo compleanno. A renderle omaggio è stata un'iniziativa nata anche dall'idea di un gruppo di uomini, i Kei del MOS, tra di loro Vanes Granzotto. Noi uomini vogliamo dare questo segnale perché la gente deve capire, deve rendersi conto. Perché così non va bene, cioè bisogna essere consci di quello che si fa. È nata così la Camminata per la Vita con la presenza dell'asinello Fendi in collaborazione con il Milan Club Alberto Tognon e con il centro antiviolenza Voce Donna di Pordenone, al quale da gennaio hanno chiesto aiuto 247 donne. Elisa Nosella, psicologa. Le iniziative come quella di oggi aiutano a diffondere le informazioni. Per poter agire in modo concreto è necessario conoscerlo, il fenomeno che riguarda tutti e tutte, non solo le donne. Aurelia, ma anche Giulia, Michela, Elenia, Gabriella, vittime nei comuni pordenonesi, nomi ai quali se ne aggiungono nuovi ogni giorno. Una donna su tre, secondo i dati Istat, subisce violenza sessuale o psicologica. Non si fa ancora abbastanza per combattere il fenomeno. Dusi Marcolin, presidente della Commissione regionale per le pari opportunità. L'impressione che abbiamo è di non fare abbastanza perché purtroppo continuano a accadere questi episodi. O finché tutti quanti non avremo e non otterremo un atteggiamento diverso e quindi far emergere il sommerso, sarà veramente difficile riuscire a superare certe situazioni. All'omaggio ad Aurelia Laurenti è seguita la campagna di sensibilizzazione e la raccolta fondi in piazza. La camminata proseguirà in altri 10 comuni pordenonesi e si concluderà a Fontanafredda, primo patrocinatore dell'iniziativa. Roveredo in Piano, Andrei Marusic, TGR Friuli Venezia Giulia. E diamo uno sguardo al tempo, cielo sereno su tutta la regione, queste le temperature registrate alle 11. A Trieste 30 gradi e mare quasi calmo con temperatura di 29 gradi, a Gorizia 34 gradi, a Pordenone 32, a Udine 33, a Tolmezzo 29 gradi, a Tarvise e Forni di Sopra 27, a Sappada 23, a Piancavallo 25, sul Monte Lussari 22 gradi, sul Monte Zoncolan 23, a Lignano 31 gradi, a Grado 29 gradi, temperatura del mare in entrambe le località di 29 gradi. Le previsioni: questo pomeriggio farà ancora molto caldo, venti a regime di brezza che tenderanno a mitigare il caldo sulla costa, e domani cielo sereno su pianura costa. Sulla zona montana nel pomeriggio nelle zone al confine con il Cadore saranno possibili rovesci o qualche temporale, temperature ancora molto elevate, specie in pianura. Al campo di volo di Campoformido l'addestramento di volo di giovanissimi avieri che frequentano la scuola militare 2 dell'aeronautica militare. Prima un test scritto a crocette e 70 domande con un limite massimo di 7 errori, poi la prova pratica, volare. È l'esame per l'attestato di pilota dei ragazzi della scuola militare 2 di Firenze che da 3 anni l'aeronautica militare affida all'Euroclub friulano di Campoformido. L'esaminatore, il generale dell'aeronautica militare Amedeo Magnani. Ormai è consuetudine, da diversi anni veniamo qui in Friuli dove abbiamo un'ottima accoglienza dall'Euroclub friulano ma in generale anche dalla regione. Per farli volare, perché ci sono le attrezzature giuste, la pista giusta e il contesto giusto. L'attività organizzata dall'Aeroclub d'Italia e dalla stessa Aeronautica Militare si chiama Giovani Aquile. Gli allievi, 6 ragazze e 3 ragazzi, tutti minorenni, devono saper gestire l'aeroplano, un ultraleggero, in tutte le condizioni di volo dopo 16 ore di addestramento. L'istruttore di volo Stefano Turchette. In 16 ore noi riusciamo a dar loro le basi teoriche per poter affrontare poi le prove pratiche in volo, e devo dire che ogni anno otteniamo un buon grado di soddisfazione. Per i ragazzi significa saper fare 2 circuiti di volo con una riattaccata, cioè un finto atterraggio, e poi mettere da soli a terra l'aereo, e dopo l'emozione del volo hanno anche un brevetto in tasca. Il coordinatore del corso, Alessandro Senesi. A questi ragazzi resta in mano innanzitutto aver conseguito un attestato che gli consente di pilotare un aeroplano prima ancora di aver conseguito la patente della macchina, quindi questo secondo me è un traguardo incredibile rispetto ai loro coetanei. Resta in mano il fatto di aver vissuto un'esperienza meravigliosa, a detta loro. Un'esperienza che dà valore anche alla tradizione del volo della regione. Francesco Regolin, presidente Aeroclub Friulano. Ci troviamo anche di fronte ad una valorizzazione delle competenze, delle peculiarità, delle discipline che riguardano il volo, anche in considerazione del fatto che tutti i velivoli, tutti gli asset, le infrastrutture sono del territorio. Campoformido, Dario Rozzoni, TGR Friuli Venezia Giulia. Gli operai specializzati sono merce rara e tanto di più i tappezzieri. Una tappezzeria di Codroipo da un anno cerca personale. Li avevamo lasciati un anno fa che cercavano personale da assumere, 3-4 cucitrici tessili che ancora mancano per mandare avanti la loro bottega di Mastri Tappezzieri a Codroipo. Fincantieri, il cliente più importante, le tende che arredano le navi bianche escono ogni settimana dai loro laboratori, tra i committenti importanti anche l'hotelleria di lusso e catene commerciali, 1.400 euro lo stipendio base che offrono con gli straordinari, anche di più. I candidati sono presentati, però avevano dai 55 fino ai 65 anni. Noi cercavamo un target anche più giovane, che va dai 30 ai 50 anni, anche per avere un futuro. Purtroppo queste persone non si sono presentate. Quelli che si sono presentati purtroppo non avevano esperienza. Ne abbiamo assunto una persona e per il resto abbiamo dovuto chiedere ai nostri colleghi che ci dessero una mano. Non lo so sinceramente come si fa ad andare avanti così, anche perché il lavoro ce n'è e si perdono delle bellissime occasioni. Io ho 64 anni. Una bella fatica, ma ci porta avanti solamente l'orgoglio di fare le cose e la soddisfazione quando sono finite. È partita da zero anche l'ultima assunta, 54 anni a settembre. Ho avuto la fortuna di trovare 2 titolari che hanno creduto in me, perché a questa età non è facile trovare lavoro. Ogni giorno imparo qualcosa di nuovo e vado a casa felice. I giovani però non ci sono. È brutto, perché guardano solo l'importo. È peccato, perché è un bel mestiere. Io fossi venuta prima. Una realtà artigiana fra le eccellenze del settore dell'arredo tessile della regione, nata dalla passione dei suoi titolari per un mestiere che, come altri, fatica a trovare giovani eredi. Io ho iniziato a 15 anni e ho sempre lavorato, ne ho 63. L'ho sempre fatto con amore, a un'età che potrei dire anche chi me lo fa fare, fra virgolette, però mi piace quello che faccio, non riesco a vedermi senza. Ci sono tantissimi sacrifici perché facciamo tantissime ore, però ci sono altrettante soddisfazioni. Secondo lei questa passione c'è ancora tra i giovani? Probabilmente no. Ho un grande dispiacere, un grande rammarico che non posso trasmettere la mia esperienza perché non c'è un candidato che la vuole acquisire. Lara Boccalon, TGR Friuli Venezia Giulia. Il livello del mare si sta alzando a causa del riscaldamento globale, un fenomeno accentuato in alcuni territori dalle caratteristiche geomorfologiche del terreno. L'Università di Trieste, che già da anni monitora metro per metro i cambiamenti della linea di costa, ha avviato una nuova ricerca empirica. Sentiamo di che cosa si tratta. L'innalzamento del mare è reale. L'Università di Trieste conduce il progetto di ricerca scientifica Mare Sopra, qual è il futuro delle coste del Friuli Venezia Giulia, per monitorare l'innalzamento del livello del mare nel Golfo di Trieste. A guidare il progetto è Stefano Furlani, che ha già mappato la parte istriana, è docente di geomorfologia del Dipartimento di Geoscienze dell'Università di Trieste. Per risalire le coste ha costruito un kayak catamarano che risponde a tutte le esigenze di ripresa video anche subacquea. Da questa ricerca nasce il progetto di divulgazione finanziato con 42.000 euro, 30 dei quali messi dalla regione, per pubblicare poi sul sito dell'università un tour virtuale molto realistico, anche con l'ausilio dei droni, così che tutti potranno vedere quello che i ricercatori hanno mappato sopra e sott'acqua. Il tour sarà online a conclusione del progetto fra circa 6 mesi. Intanto sulla pagina Facebook GeoSwim si possono già vedere alcune immagini. Mare Sopra fa parte del programma, infatti, GeoSwim, nato 12 anni fa e che ora si avvale di strumenti più avanzati. Grignano, Francesca Terranova, TGR Friuli Venezia Giulia. A Vernasso, nel comune di San Pietro al Natisone, le cave dismesse diventano un luogo di attrazione turistica per la sua geomorfologia. Un fronte estrattivo di oltre 600 metri, la cava di Vernasso prese avvio negli anni 50 con l'Italcementi, ma il graduale incremento dei livelli verticali per il prelievo e il ritrovamento di fossili marini attirarono l'attenzione dei geologi che, analizzando le stratificazioni, capirono di trovarsi davanti ad un geosito di eccezionale valore scientifico. Il costone si era formato da una frana sottomarina risalente a 50 milioni di anni fa, che aveva creato un deposito di 240 metri di spessore, unico al mondo, denominato Megastrato di Vernasso. Sentiamo Alfredo Coceano, ex dipendente dell'Italcementi. Si trovavano fossili, roba del genere, felci, presi piccoli, grandi, cose del genere. Però poi la cava andava avanti perché la cava doveva andare avanti fino agli anni 85, mi pare, la cava. Il geologo Andrea Mocchiutti. Le valli del Natisone sono caratterizzate da una roccia particolare che si chiama flysch, che è un'alternanza di marne ed arenarie. All'interno di questo flysch sono presenti anche dei mega banchi di pietra calcarea, conosciuta come pietra piasentina. All'interno di questa cava si riconoscono tutte queste tipologie di strati e all'interno dello strato sono poi stati trovati dei blocchi contenenti un'importantissima fauna marina di pesci che è stata studiata negli anni passati e che è ancora estremamente interessante. Il presidente della Proloco Valli del Natisone, Nedische Doline, Antonio De Toni. Voglio ringraziare la proprietà che ci ha concesso l'accessibilità a questo geosito che ha un valore mondiale. Questa escursione di oggi si inquadra nella nostra attività di riscoperta del nostro territorio. Giovedì 15 agosto, giornata di Ferragosto, la nostra proposta è una passeggiata a piedi nudi sul Natisone, accompagnati da una biologa che ci farà conoscere la vita di questo nostro importante fiume. Vernasso di San Pietro al Natisone, Maurizio Mervar, TGR Friuli Venezia Giulia. Il ponte dello Schioppettino, che unisce Prepotto ad Olegna del Colli, è stato teatro ieri sera del tour delle Notti del Vino, il nuovo format enoturistico promosso dal coordinamento Città del Vino FVG. Considerato storicamente il punto di incontro-scontro tra Ribolla Gialla e Schioppettino, il ponte ha visto ieri sera la consegna dei premi del 22° concorso enologico internazionale, tra cui la medaglia d'oro alla Vigna Petrussa di Albana per il suo Picolit. Premio speciale invece al comune di Prepotto per la sua pluriennale attività di sostegno alla vitivinicoltura del territorio. Il tour delle Città del Vino proseguirà il 22 agosto con 3 appuntamenti in contemporanea a Cormons, Sesto al Reghen e Sgonico. Venerdì 27 agosto invece l'unica tappa fuori regione a Momiano, in Istria, per un incontro con la Malvasia, il Terrano e il tipico Moscato. Conclusione martedì 27 agosto al Parco Comelli di Nimis. E grande apprezzamento da parte del pubblico ieri sera a Villa Bresciani Attems Auersperg di Cervignano del Friuli per un nuovo appuntamento del Festival nei suoni dei luoghi, a emozionare il progetto Four Elements con la pianista coreana di fama internazionale Sung Hee-ju, che ha eseguito musiche di Chopin, Liszt e Debussy. Uno spettacolo in cui la visual art firmata da Imaginarium Creative Studio era parte integrante dell'esperienza con le connessioni tra i quattro elementi e l'essere umano. Prossimo appuntamento con il Festival nei suoni dei luoghi, mercoledì 14 agosto a Villa Tissano di Santa Maria la Longa con il Grand Tango Ensemble. E con questa notizia chiudiamo questo giornale radio, che è stato redatto e condotto da Lara Zani e Nada Choc, con la collaborazione tecnica di Riccardo Ostojic e Mauro Cumin. Ha collaborato in redazione Daniela Sossi. Da tutti noi l'augurio di un buon proseguimento di giornata. Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.